Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. La Commissione europea presenterà le sue previsioni economiche d'inverno il prossimo 25 febbraio a Strasburgo, durante la plenaria del Parlamento europeo. Data definita, ha fatto sapere ieri sera il commissario agli affari economici Olli Rehn al termine dell'Eurogruppo. Oggi ancora intanto un giro di incontri a Bruxelles sui temi economici. Il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni ha utilizzato questa mattina una conferenza stampa qui a Bruxelles per difendere il suo operato in questi 9 mesi di governo, sottolineando tra le altre cose che la ripresa economica degli ultimi mesi è anche dovuta alle misure decise dal governo Letta. A proposito dell'opportunità o meno di sfondare il livello di deficit del 3% del prodotto interno lordo per avere maggiori margini di manovra, Saccomanni ha ricordato che aumentare il disavanzo significa aumentare il debito e che aumentare il debito significa aumentare la quota di denaro che ogni anno il Paese spende in cedole e obbligazioni. Mantenendo basso il disavanzo pubblico, nel 2013, ha detto il ministro dell'Economia, l'Italia ha risparmiato 3 miliardi di euro che oggi è possibile usare non per il servizio del debito, ma per nuove infrastrutture. La presa di posizione è giunta mentre il presidente del Consiglio in pectore, Matteo Renzi, in più di un'occasione ha espresso allergia per i parametri di Maastricht. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E l'Unione Europea si è detta delusa dal nuovo rinvio in India della decisione per i marò italiani. Dopo 2 anni dall'incidente, la Corte Suprema ancora una volta ha rinviato la decisione su quale legge debba essere applicata per l'accusa e ribadisce che sarebbe inappropriata l'applicazione della legge antiterrorismo. Le parole di Catherine Ashton: abbiamo chiaramente detto che siamo molto preoccupati, perché se ci sarà un capo di imputazione appunto sulla base dell'antiterrorismo, aggiunto, ci saranno conseguenze importanti sulla nostra lotta contro la pirateria. E l'Ucraina ancora nel caos, oggi nuovi violenti scontri, come avete sentito anche in GR24, tra polizie e manifestanti antigovernativi a Kiev, oltre 150 i feriti. Le violenze sono scoppiate quando un cordone di agenti ha impedito a un corteo di migliaia di dimostranti di avvicinarsi al Parlamento, dove oggi si discute una riforma costituzionale chiesta dall'opposizione per ridurre i poteri del Presidente. A Bruxelles oggi anche il ministro Trigilia per la conferenza europea sulle città di domani. Allora sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. L'Europa deve affrontare un problema di competizione con altre aree del mondo che stanno emergendo, e questa competizione non può più essere una competizione basata sui costi, ma deve essere una competizione basata sulla qualità e sull'innovazione, perché il motore dell'innovazione sono le nostre città, non solo le grandi città come negli Stati Uniti, ma anche quella rete di medie città che sono ricche di beni comuni, di beni collettivi. Quindi fa bene l'Unione Europea a incoraggiare la formazione di un'agenda urbana, perché questo significa pensare all'Europa del futuro. Almeno il 5% dei fondi strutturali nella prossima programmazione potranno essere destinati direttamente alle città metropolitane. Senz'altro, ma in realtà adesso salirà molto di più, perché tocca vari obiettivi, dalla digitalizzazione all'energia, all'efficientamento energetico, alle smart cities. E proseguiamo ora il nostro viaggio europeo contro gli sprechi alimentari. Come dicevamo ieri, una buona fetta dipende da noi consumatori, ma le inefficienze esistono anche nel processo di produzione e distribuzione dei generi alimentari. Con il progetto Fusions, finanziato nell'ambito del 7° programma quadro, si sta studiando come contrastare le perdite. Last Minute Market, spin-off dell'Università di Bologna, ha il compito di coordinare il lavoro per il Sud Europa. Al microfono di Laura Bettini, Matteo Guidi. Al momento non ci sono delle linee guida comuni, invece la Commissione europea cercherà, attraverso i risultati di questo progetto, di avere, come dire, dei denominatori comuni per poter poi fare anche delle proposte legislative, quindi per poter anche fare delle normative, delle direttive. Diciamo, c'è il problema della quantificazione dello spreco, come quantificarlo, c'è il problema, pensate, della definizione, cioè cos'è lo spreco di cibo, cos'è spreco. E può variare questo anche da paese a paese, può variare anche dal punto di vista dell'azienda produttrice rispetto magari dal consumatore finale piuttosto che dal produttore. Quindi prima di tutto si cercherà di definire, si sta cercando di trovare una definizione comune di spreco alimentare e poi delle modalità comuni di quantificazione, misurazione, monitoraggio, per poi arrivare anche a delle sperimentazioni di progetti pilota per poterlo prevenire e ridurre. E ancora un buon pomeriggio, vi ricordo, l'Europa torna a Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.